dell'Atalanta. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Richieste oltre le attese dunque per il rifinanziamento a 36 mesi da parte della Banca Centrale Europea. In diretta con noi da Francoforte il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro. Buongiorno. Allora, com'è andata? Raccontaci la mattinata. Ma le banche hanno avuto dalla Banca Centrale Europea 489 miliardi di euro, sono 523 banche che sono rivolte a questo sportello della BCE, hanno avuto denaro all'1%, è un'immissione senza precedenti di liquidità su un periodo di 3 anni, anche questo senza precedenti. Teniamo conto che poi a febbraio la BCE farà un'altra operazione analoga, quindi c'è una inondazione di liquidità nel sistema bancario europeo. Il mercato alla vigilia ha reagito in modo abbastanza euforico all'aspettativa che le banche avessero molti soldi a tasso molto basso dalla BCE e si è andati addirittura al di là delle aspettative di mercato. Adesso si tratta di vedere cosa le banche faranno di questi soldi, l'obiettivo della BCE è che diano credito all'economia, che comincia a essere severamente ristretto, ma potrebbero anche decidere o di ridepositarli presso la BCE come hanno fatto fino adesso, oppure di ripagare debiti in scadenza, o qualche governo si augura che li usino per comprare titoli di Stato e quindi diano un po' di fiato ai paesi della periferia che sono in difficoltà. Vedremo i fatti. Grazie ad Alessandro Merli, collega del Sole 24 Ore da Francoforte. Dunque, come avete sentito, sono state 523 le banche che hanno partecipato all'asta della BCE, fra queste anche Unicredit. Questa mattina l'amministratore delegato di Piazza Cordusio, Federico Ghizzoni, è stato ospite di Radio 24 nell'ambito del nostro Radio Day dedicato a crisi e manovra. Ha spiegato Ghizzoni come l'istituto userà la liquidità dei prestiti dell'Eurotower. La mia valutazione è positiva. Negli ultimi settimane il problema maggiore che le banche europee avevano era proprio la liquidità, il mercato dell'interbancario si era completamente bloccato, quindi questa è una risposta importante. Quindi questa liquidità verrà immessa sul mercato, spero e sono convinto che vada soprattutto a sostegno dell'economia reale, quindi sia evitato il famoso credit crunch di cui si parla così spesso in questi giorni. Poi le banche dovranno ovviamente ricapitalizzare, poi cominceremo da gennaio, ma oggi è un passaggio molto importante. Da parte nostra l'impegno è proprio quello di usare questa liquidità a sostegno dei clienti. Crescita negativa per l'Italia nel trimestre luglio-settembre, ma prima di parlare di recessione bisogna archiviare almeno 2 trimestri con il segno meno. Terzo trimestre con il segno meno. Non succedeva dal 2009. Tra luglio e settembre il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Nei 3 mesi presi in esame, tutte le componenti della domanda interna sono risultate in diminuzione. Le importazioni si sono ridotte di 1 punto percentuale circa. Le esportazioni sono cresciute dell'1,6%. Stando a questi dati, la crescita acquisita per l'anno in corso è pari a 0,5 punto percentuale. Questo è il risultato che si otterrebbe se nel quarto trimestre la variazione congiunturale fosse nulla. L'Istat ha anche rivisto al ribasso i dati sul prodotto interno lordo nei primi 2 trimestri del 2011, dall'1% allo 0,8% per quanto riguarda i primi 3 mesi dell'anno. Da aprile a giugno invece la revisione è stata dallo 0,8 allo 0,7%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È iniziato in Senato l'esame della manovra che le commissioni finanze e bilancio hanno approvato stanotte senza apportare modifiche rispetto al testo della Camera. In diretta con noi dal Senato, Vincenzo Miglietta. Buongiorno. Tra le prime votazioni già effettuate, da segnalare la bocciatura della pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega Nord. L'Aula ha quindi iniziato la discussione generale sul decreto. I tempi per il varo dovrebbero essere comunque molto stretti. Ove il governo ponesse la questione di fiducia, ha fatto capire il presidente del Senato Schifani, il via libera definitivo arriverebbe nella giornata di domani. Quanto agli schieramenti politici, Monti, lo ricordiamo, può contare su Terzo Polo, Partito Democratico e Popolo della Libertà. No alla manovra da Di Pietro e Lega. Dal Carroccio, Calderoli chiede il Presidente del Consiglio un passo indietro, diversamente, dice l'ex ministro, ci sarà tanta gente, operai, pensionati, piccoli imprenditori che la verranno a prendere a casa. Dal Partito Democratico la Finocchiaro ricorda invece le priorità per il Paese: crescita e lotta al precariato. Di salari troppo bassi ed articolo 18 parleranno invece in una conferenza stampa convocata la vigilia di Natale, CGL, CISL e UIL. Infine il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, salutando i militari all'estero, ha detto: è stato compiuto ogni sforzo per garantire la continuità dell'attività di governo in una fase difficilissima. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Intanto è mattinata accordo fra governo e regioni sul trasporto pubblico locale. Sentiamo. Sarà sottoscritto nel pomeriggio l'accordo sul trasporto locale raggiunto al Ministero dell'Economia da governo e regioni. Stando alle prime informazioni, l'esecutivo si sarebbe impegnato a rivedere i tagli previsti per il prossimo anno. In base all'intesa, i finanziamenti destinati al settore nel 2012 dovrebbero così salire a quasi 1,6 miliardi di euro, circa 400 milioni di euro in più rispetto a quanto annunciato in un primo tempo. Le risorse aggiuntive dovrebbero arrivare in gran parte con un decreto che verrà messo a punto entro il 31 dicembre, ha fatto sapere il presidente della regione Lombardia, Formigoni. Fino a quest'anno il trasporto locale aveva ricevuto finanziamenti attorno ai 2 miliardi. In ogni caso i tagli dunque ci saranno. Per contenere i disagi per gli utenti, le regioni si sono impegnate a definire una forte razionalizzazione del sistema. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ha giurato questa mattina davanti al re Juan Carlos il popolare Mariano Rajoy, 56 anni, vincitore delle elezioni spagnole, che ha così assunto formalmente l'incarico di nuovo premier di Madrid. Rajoy ha giurato fedeltà alla Costituzione e al re davanti ad una Bibbia e a un crocifisso. Alla breve cerimonia hanno assistito, oltre al re Juan Carlos e alla regina Sofia, il premier uscente, il socialista Zapatero. Le congratulazioni di Barack Obama hanno concluso la prima giornata da premier di Mariano Rajoy, che ieri ha ricevuto formalmente l'investitura del Parlamento iberico. Rajoy aveva vinto le elezioni del 20 novembre con una maggioranza schiacciante. I 185 deputati del Partito Popolare dell'Unione del Pueblo Navarro hanno così chiuso definitivamente l'era Zapatero. Contro Rajoy si sono pronunciati 149 deputati capitanati dai socialisti. A sorpresa, tra le file dei contrari, anche i conservatori catalani di Convergenza Unió. E sempre a sorpresa si sono invece astenuti gli indipendentisti baschi di Amaiur, una delle rivelazioni delle ultime elezioni. Rajoy, che sarà il sesto premier iberico dell'era post-franchista, si è detto felice per l'esito della votazione, peraltro scontata. Ho la voglia e la determinazione di portare avanti la Spagna, ha affermato. Nelle dichiarazioni programmatiche aveva anticipato di non prevedere un aumento delle tasse o una modifica della riforma delle pensioni approvata dal governo Zapatero, che prevede il passaggio a 67 anni dell'età pensionabile. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Camera ha concesso l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni nei confronti dell'ex ministro dell'Agricoltura Saverio Romano. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Così come avevo chiesto in giunta, l'autorizzazione delle intercettazioni mi potrà solo aiutare a dimostrare la mia estraneità ai fatti che mi si contestano, ha detto Romano. E oggi la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera è tornata a riunirsi sul caso Cosentino. Nel pomeriggio è attesa la decisione sulla richiesta d'arresto per il coordinatore campano del PDL, PD, UDC, IDV e Future Libertà voteranno sì all'arresto. Scontato il no del PDL, sul caso quindi resta da sciogliere il nodo sul voto della Lega Nord, che tuttavia sembra orientata a dare il via libera all'arresto. 'Ndrangheta e politica, arrestato un consigliere comunale di Reggio Calabria. Estorsione e danneggiamenti, 6 persone sono state arrestate e una fermata a Reggio Calabria, tra loro anche un consigliere comunale. È Giuseppe Plutino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Prima esponente dell'UDC, ha poi aderito al PDL, lista all'interno della quale è stato eletto consigliere comunale alle amministrative della scorsa primavera. Plutino è in carica in tutto da 3 legislature. È considerato referente politico della Cosca Caridi, che è emerso dall'inchiesta della DDA da cui sono scaturiti gli arresti, aveva il controllo delle attività estorsive in molte zone di Reggio Calabria. Le estorsioni poi, nel tipico modus operandi della mafia, erano accompagnate da danneggiamenti e intimidazioni e danni soprattutto di commercianti. Nel corso della stessa operazione sono state sequestrate le aziende riconducibili a Leo Caridi, 47 anni, ritenuto capo dell'omonima famiglia di 'Ndrangheta. I sigilli sono stati apposti a un'azienda di ortofrutta, 2 di dolciumi e una di caffè. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma il tempo al sud, nevica in Calabria, Basilicata, primi fiocchi anche nella città di Cosenza. Disagi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria e disagi anche in Sicilia. Alcuni voli diretti all'aeroporto di Palermo sono stati dirottati a Catania e Trapani. Ed è franata una parte rocciosa del Sas Maor nel gruppo dolomitico delle Pale di San Martino. Il cedimento sarebbe avvenuto 2 giorni fa, quando a valle si era sentito un misterioso boato. Secondo gli esperti, la causa potrebbe essere la normale azione degli agenti atmosferici sulla roccia, come già era avvenuto 3 anni fa, sempre nel gruppo delle Pale sul pilastro Castiglioni. Oltre 5 milioni di italiani sono esposti a rischi idrogeologici, lo stima il rapporto Ecosistema Rischio 2011 di Legambiente in collaborazione con la Protezione Civile. E non tutti vivono in piccole frazioni o comuni come quelli in cima alla classifica, ma anche nelle grandi città, l'abbiamo visto peraltro su Genova. Anzi, a questo proposito stupisce vedere che a Genova, nonostante la drammatica alluvione del novembre scorso, venga comunque attribuita la sufficienza per le azioni di mitigazione intraprese. Laura Bettini ha chiesto spiegazione a Rossella Muroni, direttrice di Legambiente. Alcune delle localizzazioni sono state fatte e questo, come dire, va a merito dell'amministrazione comunale e infatti nella classifica portano Genova tra i comuni virtuosi. Questo però non è bastato perché a Genova c'è una situazione da un certo punto di vista emblematico, che è la condizione che vivono gran parte dei fiumi del nostro paese. Lì ci sono 3 fiumi che passano sotto la città e sono stati intubati. Di fronte a precipitazioni straordinarie, comunque particolarmente intense, è come se i fiumi presentassero il conto in qualche maniera. Questo è successo a Genova, ma a Genova è successa anche un'altra cosa, che i cittadini non si sono resi conto della situazione di rischio che stavano vivendo e nessuno aveva detto loro esattamente come ci si poteva comportare. Di nuovo, questa è una situazione emblematica per tutto il paese. Quelle città che quindi vediamo in classifica più in alto forse hanno intrapreso questa serie di azioni? Più che magari risolvere problemi. Assolutamente, non è una classifica delle città o dei problemi risolti. Ed ora andiamo a Firenze. E sarà proprio l'inno alla gioia a segnare l'inaugurazione del Teatro dell'Opera di Firenze, Maggio Musicale Fiorentino, stasera alle 20:30. Sono attesi il presidente Giorgio Napolitano e diversi ministri. Un'opera terminata in tempi record che dovrebbe dare a Firenze una città della musica. Sentiamo la sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Francesca Colombo, al microfono di Adriana Fracchia. L'apertura di un teatro d'opera è davvero una cosa meravigliosa, un segnale di fiducia nel futuro, un simbolo proprio che va difeso a tutti i costi, e Firenze aveva proprio bisogno di un nuovo spazio, un polo culturale, perché questo nuovo teatro avrà 3 sale, una dedicata all'opera, una ai concerti e una cave all'aperto, in una cornice meravigliosa che è, a parte Firenze, ma proprio collocata di fianco alla stazione Leopolda e a 2 passi dal Parco delle Cascine, e quindi siamo veramente emozionati e felicissimi, anche perché della prova che abbiamo fatto ha un'acustica meravigliosa. Il complesso è esteso su 57.000 metri quadrati e ospiterà appunto non soltanto lirica e balletto, ma tutti i generi musicali. Il maestro Meta dice ad eccezione del rock and roll. Ma perché? Vedremo, alla cavea si presterà, poi abbiamo una piazza meravigliosa che circonda la torre scenica, quindi non solo classica, non solo opera lirica, sinfonica e balletto, ma anche jazz, infatti avremo Bollani il 22, anche rock e pop, perché il 31 in realtà, dopo un galà e una cena in 3 atti, diciamo per arrivare a mezzanotte per il brindisi, poi seguirà una festa danzante con musica che dal jazz poi evolverà fino al rock e pop e a techno addirittura. Corsa delle banche ai prestiti della Banca Centrale Europea, erogati quasi 500 miliardi ad oltre 500 istituti di credito. Secondo uno studio di Legambiente, sono oltre 5 milioni gli italiani che vivono in zone a rischio idrogeologico e sono anche nelle grandi città. E ripartiamo dall'allarme anche in Italia per le protesi al seno cancerogene arrivate dalla Francia. Si terrà domani mattina alle 11 la riunione del Consiglio Superiore di Sanità, convocata d'urgenza dal Ministro della Salute Renato Balduzzi. La situazione è sotto controllo, ha reso noto il Ministero. La stima in base alla quale sarebbero circa 5.000 le donne italiane cui è stato impiantato questo tipo di protesi è tutta da verificare. Maria Luisa Pezzali ha fatto il punto con il professor Paolo Palombo, segretario nazionale della SIC, Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.

soprattutto della Lazio, poi di Roma, Fiorentina, Chievo, Genoa, Cagliari, Bologna, Catania e Udinese, oltre a quelli già noti di Brescia, Lecce, Bari, Napoli e Sampdoria. Ma la svolta che rischia di avere un impatto immediato sulla classifica del campionato è la scoperta di un contatto diretto tra Doni e un dirigente dell'Atalanta. Nei giorni precedenti la sfida con il Padova, che per i magistrati di Cremona fa parte dell'elenco di quelle truccate. Tre sms e una telefonata che Doni fa utilizzando il numero protetto intestato a un rumeno, destinatario un numero di cellulare di una società di uno dei consiglieri d'amministrazione dell'Atalanta. È il 24 marzo 2011, due giorni prima della partita, su cui si registrano scommesse esagerate per il pareggio e che poi termina 1-1. In estate la giustizia sportiva aveva definito probabile ma non provata la combina. Ora nuove ombre si allungano su Doni e sull'Atalanta. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Il Milan vince a Cagliari nell'anticipo del turno infrasettimanale, che vale come recupero della prima giornata di Serie A che saltò causa sciopero. Il Milan dunque vince e si riprende la testa della classifica in attesa di Udinese Juventus, che sarà oggi la partita di cartello. Calcio d'inizio, ore 18. E David Beckham avrebbe detto sì al Paris Saint-Germain, secondo quanto scrive oggi il quotidiano francese Le Parisien. La star del calcio inglese avrebbe accettato un contratto per 800.000 euro lordi al mese per 18 mesi a partire da gennaio. Le indiscrezioni sul possibile passaggio di Beckham al Paris Saint-Germain si susseguono ormai da settimane. E l'evento televisivo sportivo per eccellenza, il Super Bowl, verrà trasmesso per la prima volta anche su internet. L'appuntamento è per il 5 febbraio e per la prima volta nella storia la gara che assegna il titolo del campionato di football americano verrà trasmessa via internet anche su smartphone. Si potranno vedere inquadrature esclusive, rivedere le azioni principali on demand e avere a disposizione una infinità di statistiche aggiornate in tempo reale. E visto che una parte dell'evento è rappresentato dalla pubblicità, perché molti spot vengono fatti ad hoc per la finale del Super Bowl e a volte sono veri e propri capolavori, si potranno vedere i replay pure degli spot. La Federazione del Football Americano già da 4 anni trasmette le partite del sabato sera via internet con una media di 200-300.000 spettatori contro i 21 milioni della TV. Sarà interessante vedere cosa succederà durante un evento che invece di spettatori in TV lo scorso anno ne ha fatti più di 110 milioni. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora vi lascio al nostro Radio Day, proseguiamo a raccontarvi, a spiegarvi le parole della crisi, in questo caso parliamo di Eurobond. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.